ricordi quel mese prima di stare insieme. Ti rincorsi lontano dando all'animo che teme forza ancora e coraggio oltre le lame che volevano dividere d'odio l'amore. Rincorsi, mostra i tuoi occhi, battiti di cuore ancora oggi senza rimorsi, ancora t'amo e corsi a perdi fiato pagine di inchiostri. E oggi l'allor sentimento temuto e sentore di morsi all'animo taciuto sono oggi predizione del tempo che ieri distorsi dall'amarti. Polsi la notte, oggi chiamano tali lame dolorosi ricordi che ricamo a cicatrici tra echi che falsi vorrebbero i miei ricordi oggi fatti arsi. Non dimenticarti mai del bacio dato prima poiché alla fermata dell'autobus perciò con arsa oggi bocca a rimo e non riesco a cancellarti. Sorriso di lacrima e lacrima in rima rovina anni di rapina rubando pure a me stesso contenuto e rima archetipo di io di un semidio Cronos ebro mi derise e sfidò in rime intrise di alcol e storie. Oggi mai nulla come mai oggi sode di raggi e tuoni e poi piove e poi piove. Sorriso di lacrima in rima rovina anni di rapina rubando pure a me stesso contenuto e rima archetipo mio io di un semidio Cronos ebro mi derise sfidò in rime intrise.